9 in punto. Buongiorno, bentornati a 9 in punto. Come annunciato, oggi parliamo dei nonni, parliamo della nuova famiglia, di una famiglia che sta cambiando. Secondo una ricerca della Camera di Commercio di Milano, l'apporto dei nonni alla realtà familiare, come babysitter, come aiuto alle pulizie di casa, lavare e stirare, nei piccoli lavori di cucino o di cucito, porta ogni anno un risparmio di 9 miliardi alle famiglie lombarde, complessivamente di 50 miliardi. Ovviamente un dato stimato alle famiglie italiane. 50 miliardi di euro. Essere nonni oggi cosa vuol dire? Com'è cambiata la famiglia? 800 24 0024 il numero verde per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Abbiamo come ospiti la professoressa Silvia Vegetti Finzi. Buongiorno signora Vegetti Finzi. Buongiorno a voi. Psicologa, docente di psicologia e autrice di un libro, Nuovi nonni per nuovi nipoti, un libro che uscirà in una nuova edizione da Mondadori nelle prossime settimane. Nuovi nonni per nuovi nipoti, quindi qualcosa sta cambiando, professoressa Vegetti Finzi? Direi che qualche cosa è già cambiato, perché quando ci accorgiamo che qualche cosa sta cambiando, di solito il fatto è già avvenuto. Direi che siamo di fronte a una nuova geometria della famiglia, in quanto i nonni che tradizionalmente occupavano una posizione marginale, costituivano una specie di così testimoni del passato un po' defilati, sono saliti al centro della famiglia per tutte le ragioni che le cifre che voi avete preannunciato rivelano, perché sono una fonte di sostegno economico indispensabile per le giovani coppie, perché sono un sostegno sociale che fa fronte all'inadeguatezza di tante risorse, e infine perché sono una possibilità di donazione affettiva, di disponibilità di cui i nuovi bambini non potrebbero più fare a meno. Abbiamo con noi anche Nadio Delai, sociologo, presidente di Ermeneia, un attento analista della realtà italiana. Ecco, da un punto di vista sociale, questo cambiamento è un cambiamento di lungo periodo, Delai, o qualcosa è avvenuto che ha fatto scattare questa nonnitudine, questa centralità del nonno? No, è un processo di lungo periodo che, come ricordava la professoressa Vegetti Finzi, è già avvenuto, già si sente, ma la nostra testa è sempre in ritardo, perché noi viviamo i dati di fatto, ma l'interpretazione insomma arriva tardi. Noi abbiamo ancora una cultura vecchia dei nonni. Se lei considera che oggi il 30% delle famiglie italiane è da considerare una famiglia allargata, nel senso che comprende certamente i nonni e gli adulti e i bambini, che si scambiano significative relazioni di mutuo aiuto o mutuo consiglio. Quindi non parlo dei nonni assenti, parlo dei nonni presenti ma non conviventi. Bene, l'Istat registra solo il 3% di famiglie italiane con almeno tre generazioni conviventi, ma la convivenza non vuol dire niente oggi, perché la famiglia allargata è quella che si aiuta reciprocamente in denaro, in servizi, in assistenza psicologica, in sostegno, ed è il 30% delle famiglie italiane quantomeno, quindi è molto grosso. E se noi calcoliamo, come io ho calcolato qualche anno fa, quanto denaro, quindi al di là degli aiuti e dei servizi domestici e della sintonia che si può realizzare tra le diverse generazioni, c'è anche il flusso di denaro in quanto tale. Ebbene, in un anno il flusso di denaro che parte dagli anziani e va verso le giovani generazioni ormai fuori casa, il che vuol dire figli, sposati, nuore, nipoti, è la cifra rilevante di 80 miliardi di euro, naturalmente per comprare il computer, per comprare la macchina, per pagare il mutuo della casa o anche per comprare la schedina telefonica al nipote, eccetera, eccetera. Quindi non solo c'è lo scambio, diciamo, immateriale importantissimo e anche emotivo, ma c'è anche il passaggio di denaro fisico. Lei consideri che l'80 miliardi vuol dire grosso modo il 15% dei consumi delle famiglie, certo, italiane, quindi sono soggetti che sono un sostegno che è talvolta indispensabile per le giovani famiglie, per la casa, appunto, per avviare soprattutto una famiglia. Io vorrei sentire l'avvocato che ringrazio, Anna Maria Bernardini De Pace, buongiorno. Buongiorno a voi. Avvocato matrimonialista, specializzata di famiglia soprattutto. Avvocato di famiglia, oltre che nonna, perché essere donna è anche importante. Allora, la famiglia è cambiata, si diceva spesso la famiglia moderna è una famiglia in cui si tende a divorziare di più, si tende a rompere di più la famiglia. Ecco, i nonni sono qualcosa che possono aiutare le famiglie a stare più unite, o almeno a non far ricadere sui figli quello che è comunque diciamo un pericolo e un danno che deriva dal divorzio? Allora, certamente i nonni costituiscono per i figli la continuità. Laddove in genere esiste questa variabile del sentimento nelle nuove generazioni, che porta a tenere in piedi un matrimonio solo ed esclusivamente finché c'è l'amore. Allora, i nonni però rimangono sempre, spesso si moltiplicano proprio perché le famiglie si ricompongono, e allora un bambino invece di avere quattro nonni si trova ad averne sei o otto, perché ci sono i nuovi partner dei loro genitori. Ma certamente rispetto alla famiglia originaria, i nonni costituiscono il punto di riferimento prezioso e importante della continuità. Ecco, i nonni sono quasi un affidamento secondario per i figli di una coppia che si divide. Certo, può essere, qualora tanto nella quotidianità i nonni sono presenti comunque, quando si trovano a separarsi spesso i genitori o sono inadeguati e quindi è il tribunale stesso che colloca i figli presso i nonni, addirittura a volte li affida con tutte le competenze e le responsabilità del genitore affidatario, ma anche quando non c'è la separazione c'è. Abbiamo visto, appunto, abbiamo sentito, c'è questa presenza costante dei nonni che consente ai genitori di essere più tranquilli e anche, appunto, di fare un grandissimo risparmio dal punto di vista economico. Ma io credo che i nonni non lo facciano per questo, i nonni lo fanno certamente per amore. L'amore, come diceva mia nonna, che io ricordo ancora con tenerezza, è discendente dalle generazioni vecchie, va alle generazioni nuove senza bisogno e obbligo di ritorno. Avvocato Benedetti De Pace, proprio pensando ai rapporti suoi con sua nonna e ai rapporti di sua nipote con lei, vede qualche cambiamento di fondo? Beh, insomma, vedo il cambiamento che mia nonna era una donna casalinga, una donna molto ferrea, moglie di un generale dei carabinieri, quindi abituata a vivere con attendenti e comandanti, e con me aveva, devo dire, questa tenerezza infinita, questa capacità di raccontarmi la verità della vita che mia madre mi teneva nascosta, di tutto, di qualsiasi cosa. E poi invece vedo io oggi con mia nipote che sono assolutamente incantata dalla sua capacità affettiva, inaspettata, essendomi sentita sempre al centro del mondo, apprezzo molto quello che fanno gli altri quando me ne accorgo, e appunto in particolare la mia, anche a due anni, i miei nipotini, che hanno gli altri maschi, uno 9 uno 7, hanno questa capacità di venirmi incontro perché sanno che sono una nonna impegnata, sono a casa. Una nonna che rischia di essere un po' complice dei nipoti, magari. No, sono molto complice, io sono la peggior complice dei miei nipoti, perché loro hanno la convinzione assolutamente reale e la capacità di chiedermi qualsiasi cosa e di avere qualsiasi cosa da me, e finalmente io vivo questo lato irresponsabile dell'amore che non ho potuto vivere con le mie figlie. Sentiamo allora un nonno in servizio, non so se permanente effettivo, però un nonno in servizio, un doppio collega come nonno e come giornalista, Piero Sterlino, ex direttore del Corriere della Sera, ora editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Sterlino. Buongiorno. È nonno complice dei propri nipoti? No, direi di no, anzi c'è uno dei miei nipotini, io ne ho tre, che fa gara con gli altri suoi compagni per avere il nonno più severo. Lui dice: io ho un nonno severissimo, e quindi rispetto agli altri che evidentemente hanno dei nonni meno severi, lui si sente molto importante perché ha un nonno severissimo. Quindi complice direi proprio di no, così come non lo sono mai stato dei miei figli. Cioè, io sono stato un padre, sono un nonno un po' distaccato, cioè un po' tradizionale, cioè di quelli che conservano il luogo dell'autorità e della severità nei confronti sia dei figli sia sia dei nipoti. Ecco, questo è il mio atteggiamento, forse naturale, insomma, sono fatto così, ecco. Ecco, Stelio, come... nessuna complicità, anzi una certa severità, che però non impedisce che i miei figli, i miei nipoti passino quasi 3 mesi di vacanza all'anno nella nostra casa qui in campagna in Provenza con noi, e quindi giochino con noi, eccetera, però con un certo distacco e con una certa severità. Quindi un po' complice più dei figli, per aiutarli un po' a vivere le loro vacanze in maniera un sì, po' più libera. Sì, vengono anche i figli a questo punto, cioè le case di campagna sono fatte anche per riunire le famiglie, ecco, cioè io in questo senso sono piuttosto patriarcale. Si ritrova la famiglia che guarda tutti con una certa autorevolezza o autorità che sia, ecco. Per chi può, la seconda casa diventa la casa patriarcale di un tempo. Assolutamente sì, ecco, questa io la ritengo tale, cioè la funzione che io assegno a questa mia casa di campagna è proprio quella di riunire la famiglia sotto il patriarca e contemporaneamente anche di ricevere gli amici che sono di passaggio, che vengono anche qualche giorno da noi. Cioè in qualche modo un modo per socializzare è con la famiglia e con gli amici, cioè questa è la funzione. Quindi anche il rapporto con i nipoti, che giocano nel prato, che giocano in piscina, eccetera, è un rapporto di socializzazione, cioè ci si conosce finalmente, perché durante l'anno ovviamente loro vanno a scuola, io ho i fatti miei, e ci vediamo poco, anche perché io ho alle spalle una tradizione di questo genere, cioè io sono nato a Venezia, ma malgrado la mia famiglia sia torinese, io sono nato a Venezia, sono vissuto a Venezia e sono vissuto a Napoli, mentre i miei nonni stavano a Torino. E quindi li vedevo pochissimo, cioè li vedevo soltanto una volta all'anno per le vacanze, più o meno come accade con i miei nipoti adesso, anche se i miei nipoti vivono a Milano e quindi dovrei vederli più spesso, ma per ragioni obiettive, perché loro hanno da fare, io anche, ci vediamo meno, e i 3 mesi dell'anno delle vacanze diventano invece il momento in cui la grande famiglia Ostellino si riunisce. Grazie a Piero Ostellino, resta con noi, 800 24 00 24 il numero verde, Davide da Macerata. Buongiorno, da Città di Castello, direttore. Da Buongiorno. Città di Castello, complimenti. Buongiorno, grazie. Ascolti, ho telefonato perché volevo portare la testimonianza mia. Io sono un ragazzo di 32 anni, sto per diventare padre, ci diventerò a gennaio del 2010, e tanto io che la mia fidanzata spesso pensiamo a questa argomentazione perché assistiamo cioè percepiamo perlomeno dei ruoli di nonni molto differenti per quanto riguarda la nostra generazione e gli esempi specifici che abbiamo in casa rispetto a quelli che erano i nonni nostri, cioè di 20 o 30 anni fa. I miei genitori, che vivono felicemente assieme, e i genitori della mia fidanzata separati, conducono una vita del tutto all'insegna della spensieratezza. Comunque sono nonni che la sera vanno a ballare, si divertono, tornano tardi, la mattina dormono. Ora non so se magari noi cioè, sono dei cattivi esempi in pratica, questo vuol dire? Guardi, direttore, io mi auguro che l'avvento del bimbo porti un po' di quella che noi consideriamo normalità, cioè dei nonni che stiano più a casa, che si dedichino anche più alla vita da nonno, che a noi sembrava vita da nonno. Cioè i nipoti dovrebbero servire a fare, così, in un certo senso, tornare sulla retta via dei nonni un po' troppo spensierati. Sentirei, ringrazio Silvia Vegetti Finzi su questo punto. Può esserci anche una funzione così educativa da parte dei nipoti verso i nonni? Ma sicuramente è un rapporto reciproco, e mi piace appunto constatare questa così simpatico, affettivo rimprovero che il futuro padre rivolge ai nonni. E invece in realtà la situazione è spesso contraria, cioè ci sono dei nonni che si rassegnano proprio per richiesta dei figli ad essere soltanto nonni, no? I nonni nonni che non fanno altro che essere a disposizione di figli e nipoti. Questa disponibilità eccessiva finisce per produrre stanchezza e malinconia. È benissimo che i nonni vadano a ballare, benissimo che i nonni viaggino oppure continuino come Ostellino la loro attività lavorativa, perché questo li mantiene giovani, disponibili, più vicini al bambino. In realtà i bambini vogliono dei nonni vivi, non dei semplici guardiani. La disponibilità incondizionata è negativa, e nel libro continuo appunto ad invitare i nonni ad essere anche se stessi, a continuare la loro vita, proprio per non arrendersi totalmente alle richieste dei figli, che spesso sono esagerate, un po' eccessive. Ricordo poi una cosa, che si diventa nonni quando nasce un nipote, non prima. C'è bisogno che nasca il primo nipotino per scoprire questa nuova dimensione della vita e assaporarne tutto il piacere. Questo è, dico al padre che tra poco sarà tale, vedrà che il suo bambino, che è il nipotino, sarà in grado di conquistare, proprio di sedurre i nonni in modo da far rinunciare loro senza eccessiva fatica, eccessivo rimpianto, a quegli aspetti di gioventù che ora mantengono. Ecco, forse, professoressa Veggetti Finzi, dobbiamo anche rimuovere il luogo comune nonno uguale anziano. Esattamente, io dico che accanto a un bambino che cresce non c'è posto per la vecchiaia, e il libro che lei ha citato gentilmente, Nuovi nonni per nuovi nipoti, reca il sottotitolo La gioia di un incontro. Devo dire che questo sottotitolo mi è stato dettato dai nonni, nel senso dei nonni maschi, che hanno scoperto attraverso i nipoti una dimensione della vita che avevano un po' trascurato in quanto padri. Allora erano tutti presi dalla carriera, dagli interessi culturali, dagli impegni sociali. Ora invece, nella nuova disponibilità di nonni, scoprono una parte femminile e materna, quella ad esempio che si ha col contatto fisico con il nipotino, che per loro è qualcosa di travolgente. Scrive un nonno: mi sento nonno nelle braccia quando i miei nipotini mi corrono incontro ed io li prendo al volo, anche se la mia schiena sempre più stanca mi fa chiedere fino a quando durerà. Però finché dura non ho bisogno del paradiso. Grazie. Nadia Delai, in Italia, ma un po' in tutto il mondo, si vive un po' più a lungo. Questa vita media più lunga è una delle ragioni per cui i nonni diventano più importanti? Sono più importanti per la società e più importanti per se stessi. Quando una persona, come chi ha telefonato prima, a 32 anni, chiede la normalità, è anche un piccolo indicatore di come il nostro modo di concepire il mondo anziano è antico, perché a 32 anni può benissimo avere un padre che ce n'ha 60, ma a 60 oggi è come averne 50, 10 anni, 20 anni fa, 30 anni fa. Quindi noi dobbiamo entrare nell'idea che esiste il piacere di essere nonno. La nonnità certamente è un dato bello e positivo, ma ci si deve abituare che c'è un nonno attivo che tra i 60 e i 70 ormai viaggia verso una vita attiva, non una vita ritirata da nonno full time. Questo modo di pensare è un modo nuovo, perché vuol dire che la nostra società salta per aria, cambia proprio la logica. L'ultima indagine che ho fatto sulle persone tra i 50 e i 60, tra i 60 e i 70, giocano tutti su una prospettiva di, come dire, pensionamento attivo, che sembra una contraddizione di termini. Quello che dice Piero Ostellino deve diventare, come scelta, non come obbligo, ma certamente la possibilità di avere una vita piena, attiva, anche professionale, fino a 70 anni per chi lo desidera, e anche oltre, perché gli anziani mi dicono: ma io voglio restare attivo finché ce la faccio. Allora, avere un nonno attivo significa avere un nonno persona, non solo un nonno a servizio. A servizio, indubbiamente. Grazie, Nadia Delai. Bentornati a 9 in punto. Stiamo parlando del ruolo dei nonni, del nuovo ruolo dei nonni in una nuova famiglia, in una nuova realtà sociale. Ovviamente cambiamenti di lungo periodo, nessuna rivoluzione che è avvenuta in pochi giorni. Ne parliamo con Silvia Veggetti Finzi, con Nadia Delai, con Piero Stellino, con Anna Maria Bedradini De Pace. L'800 24 00 24 per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Maura dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo fare un intervento di questo tipo. Io ho visto la fotografia che avete fatto sui nonni di oggi e mi trovo molto d'accordo su quello che è stato detto, e anche su quanto i nonni di oggi servono dal punto di vista economico, quindi riescano ad aiutare i figli, eccetera. Però guardando un po' più avanti, io penso che questa fotografia già fra una decina d'anni non potrà più essere di questo tipo, perché col fatto dei pensionamenti che porteranno i nonni ad andare in pensione molto più tardi, e anche col tipo di lavoro che diventa sempre più faticoso e prende tanta parte della giornata, per tutti i settori praticamente. Io non vedo come questi nonni potranno un domani, andando in pensione così tardi, aiutare i figli e riuscire anche ad avere gestire i nipoti nel mondo. La ringrazio Maura per questa telefonata. Beh, in effetti l'età pensionabile si sta alzando, ma molto lentamente si sta alzando, però parallelamente, forse meno velocemente di quanto si stia alzando l'età media, si stia allungando la vita media delle persone, e quindi questo rapporto tra capacità, diciamo così, sociali, capacità di aiutare le persone, si sta anche innalzando come età. I nonni per un certo periodo sono certamente utili, poi per un certo periodo dovranno essere probabilmente aiutati, speriamo, dai nipoti quando saranno in età più avanzata, ma questo allungamento della vita è un allungamento che è un dato di fatto. Nadio Delai, su questo punto. Beh, oggi sappiamo che gli uomini hanno una speranza di vita di 77 anni, le donne di 83, e quindi dobbiamo accettare l'idea di una doppia figura di nonno. C'è un nonno tra, diciamo, tra i 60 e i 70, 75, che è un nonno molto attivo, che ha una vita anche affettiva, magari nuova ed autonoma, che probabilmente lavora, non lavora a pieno tempo, lavorerà, ma insomma ha l'agenda piena, e un nonno che esercita la nonnità. Io credo che sia vero il principio che anche i ragazzi hanno bisogno, i nipoti hanno bisogno di avere davanti una persona a pieno titolo con tutte le sue caratteristiche. Cambieranno i rapporti, i rapporti economici rimarranno, l'aiuto sarà senz'altro dato, anche perché non è detto che l'uomo e la donna lavorino con la stessa intensità, per esempio, insomma. E quindi cambia questo sistema. Quello che sottolineo è che è il nostro modo di pensare individuale e collettivo che deve fare un salto avanti, accettando che tra i 60 e i 70 abbiamo naturalmente delle persone attive e vivaci, come potevamo avere 30 anni fa, quando erano, come dire, noi oggi se chiediamo a un anziano quanti anni si sente, mediamente dice 14 anni di meno rispetto all'età anagrafica, ed è la constatazione che abbiamo sotto gli occhi. E ci sono molti nonni cinquantenni, 52enni. Ora è chiaro che essere nonno a 52 oggi non può far pensare al nonno di prima che rientra nei ranghi, ma neanche a 62, spesso neanche a 70. Noi dobbiamo essere felici di avere una fetta di popolazione che tendenzialmente diventa più attiva. Può diventare attiva in maniera diversa, non è detto che deve continuare a fare lo stesso lavoro. Io personalmente penso che è giusto cambiare lavoro, ma è giusto ricominciare un altro ciclo di vita professionale, perché riempie la vita, come riempie la vita un rapporto affettivo magari anche di tipo nuovo. Quindi questa idea di anzianità attiva deve entrare nel cervello individuale, nel cervello del legislatore e dico persino nel cervello del mercato, perché le stesse aziende stentano ad accettare che gli anziani sono un soggetto attivo, solvibile, pieno di bisogni nuovi, e che non sono solo nonni in grigio, sono anche nonni colorati, come è giusto che sia. Essere nonni adesso è diverso dal passato. Avvocato Bernardini De Pace, questo cambia qualcosa anche nei rapporti giuridico-patrimoniali della famiglia? Allora, dal punto di vista giuridico-patrimoniale, i nonni hanno solo doveri e non hanno diritti. Hanno doveri perché devono fornire i mezzi necessari ai figli, qualora essi non li abbiano, proprio per mantenere i nipoti. Diritti non ne hanno. Io credo che sia invece interessante fare notare come sono i nipoti spesso che danno tantissimo ai nonni, come diceva Silvia Vegetti Finzi, la gioia dell'incontro. La gioia dell'incontro è anche nel reciproco cambio di curiosità e di competenze. Io dai miei nipoti, dal mio nipote grande, ho imparato i giochi elettronici, ho imparato un uso particolare del computer che non sia solo quello connesso al lavoro, ho imparato che esistono i gormiti, dalla piccolina che ha 2 anni ho imparato tutto sulle Winx, così come loro, per esempio, hanno imparato da me a ballare, a cucinare, fanno jogging, fanno ginnastica. È questo scambio, secondo me, che è molto vitale e molto importante. Per i nonni è sicuramente una possibilità di vedere la vita attuale con occhi diversi, dimenticandosi anche delle stanchezze. Ora, trovo ingiusto che uno che si autodefinisce ragazzo a 32 anni pretenda che una persona di 60 anni dimentichi, 60 o anche più, dimentichi di esistere perché deve dedicarsi a fare il nonno e non possa andare a ballare. È molto meglio l'incontro assolutamente semplice e di scambio gioioso nella curiosità della vita. Questo è quello di fatto che prevede anche il diritto, perché certamente c'è il dovere dei nonni di mantenere i figli e non i nipoti quando non c'è la possibilità, però c'è anche il diritto dei figli, che la nuova legge sull'affido condiviso del 2006 ha espresso e chiarito, c'è il diritto dei figli di continuare a mantenere il rapporto, il tessuto affettivo che si è creato con i nonni, tant'è che quando nei conflitti devastanti delle separazioni ci sono dei coniugi che pur di fare un dispetto all'altro impediscono ai figli di vedere il genitore appunto del coniuge rifiutato, il tribunale può intervenire per ratificare e rendere ancora attuale il diritto dei figli a continuare a vedere i nonni. Quindi è qualcosa che va al di là del diritto, qualcosa di vitale sia per i nipoti che per i bambini, questo, sia per i nipoti che per i nonni. Questo incontro è qualcosa di energetico nella vita e di importante, perché poi se vogliamo i nipoti sono il futuro dei nonni, i nipoti sono il futuro dei nonni, si possono proiettare nel futuro in questo modo, e d'altra parte i nonni aiutano i bambini a costruire dei ricordi che sono molto importanti per la crescita dei ragazzi, dei ragazzini. Ecco, proprio in questa prospettiva educativa mi sembra, Ezio dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io sono diventato nonno a 66 anni, oggi ho 72 anni e sono attivo sul lavoro ancora. Complimenti. Ostellino, mi sembra che abbia detto che è severo con i nipoti e che praticamente li sta educando. Ora, io non condivido questa posizione, perché secondo me l'educazione dei figli spetta ai genitori. I nonni, pur rispettando questa educazione che devono impartire i genitori, devono in fondo, mi sia permesso, tra virgolette, viziare i nipoti, altrimenti sarebbero padri o madri, e non è questo il ruolo del nonno. Ecco, la ringrazio, mi sembra che però non dobbiamo forse schematizzare troppo le cose, ogni famiglia, ogni persona, ogni realtà poi assume i suoi ruoli, lo vive in un modo anche diverso, lo vive in un modo poi a seconda delle necessità, delle contingenze, anche delle opportunità che si propongono. Comunque, Piero Ostellino. Pronto. Io ho sempre guardato alla mia figura, sia di padre e soprattutto adesso di nonno, come un po' il luogo della perpetuazione della tradizione di famiglia e anche un po' della disciplina e della severità, cioè la tradizione e disciplina camminano assieme. E quindi sotto questo profilo io credo che anche mi vedano i miei nipoti, cioè il rapporto è in questo senso. Cioè, ad esempio, mi è capitato che uno dei miei nipotini mi dicesse che voleva fare il cantante. E però ha aggiunto, però col cognome che ho, cioè il cognome di suo padre, perché ha sposato mia figlia, dice non mi sembra un cognome molto adatto. Io ho detto, beh, potresti chiamarti Ostellino. E dice no, questo è un cognome da direttore. Beh, sì. Ecco, cioè lui vedeva e vede nel nonno la perpetuazione della tradizione di famiglia, eccetera, la casa piena di libri, la casa di campagna, insomma queste cose qua. Ma vede anche la perpetuazione di una certa figura che è la cassazione rispetto ai genitori. Cioè quando fanno i compiti si rivolgono ai genitori o a mia moglie, che è la nonna, quella più paziente, ma comunque si rivolgono a loro. Però quando incontrano una parola difficile o quando hanno una difficoltà, allora vanno alla cassazione, cioè arrivano da me. Perché evidentemente identificano nel nonno il punto terminale, cioè quello che poi mette la parola fine a qualsiasi discussione, a qualsiasi problema. Ma perché è più autorevole il nonno o perché hanno meno soggezione del nonno? No, perché hanno forse un pochino più di soggezione, ma come dire, lo considerano il patriarca di famiglia, cioè quello al quale ci si rivolge quando i problemi diventano più acuti e più difficili da risolvere. Ecco, sotto questo profilo io, che sono molto tradizionalista e forse anche un tantino conservatore, ritengo che le famiglie abbiano questa funzione, cioè i genitori sono una cosa Io escludo che anche i genitori possano essere degli amici dei figli, devono essere i genitori, sono il padre e sono la madre, io questo sono stato. Ma i nonni sono il punto terminale, cioè la continuazione della tradizione, ma anche il momento della disciplina, della maggiore disciplina, della cassazione alla quale ci si rivolge quando ci sono dei problemi. Ecco, questa gerarchia all'interno delle famiglie è una cosa che a me piace. Perché? Non perché io in questo senso mi senta più importante o qualcosa del genere, ma perché penso che all'interno delle famiglie devono esserci delle gerarchie di valori e di aspettative. E i nipoti, i miei nipoti si comportano così con me, cioè loro sanno che quello è il punto terminale della tradizione familiare, della disciplina, della maggiore, come dire, con consapevolezza che si vive in un mondo in cui è necessario rispettare le regole, eccetera. Se i genitori alle volte non le fanno rispettare, loro sanno che c'è il nonno, ci sono i nonni che sotto questo profilo sono invece la continuazione di questa tradizione, cioè delle regole del gioco, delle regole di come si sta a tavola, delle regole come ci si comporta con il prossimo. Ecco, questo io ritengo importante nella vita di una famiglia. Importante appunto come testimonianza del nonno, testimonianza verso i figli e verso i nipoti. Simone da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. No, io volevo fare un piccolo intervento sulla base della realtà che ho vissuto io. Io abito a Milano. Anche io ho notato questa straordinaria presa di potere da parte dei nonni all'interno delle famiglie. La mia riflessione, anche basata sulla storia mia personale, è questa. Mi sembra che spesso i neogenitori abbiano la tendenza a non essere padri ma a rimanere figli, e quindi questo porta a una notevole importanza dei nonni, nel senso che spesso vedo nonni che devono accollarsi i nipoti, ma non perché i figli abbiano degli impegni improrogabili, ma per andare a fare il weekend o per andare a fare la vacanza, la mini vacanza a Miami. Ho capito, questa è la sua testimonianza. Grazie, bentornati a Nuovo in Punto. Stiamo parlando dei nonni. Una testimonianza ci dice: i nonni hanno più potere perché i figli tendono a lasciare a loro delle responsabilità. Sentiamo anche Stefano da Grosseto. Buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, quello che volevo dirvi è questo: avete trattato benissimo nella vostra trasmissione tutti i lati, direi, positivi, però io ritengo che ci siano anche dei lati negativi. Per esempio, uno può essere questo: il fatto di comunque, per esempio nel mio caso, io ho un'abitazione dove ci sono due appartamenti, sotto stanno i genitori di mia moglie. Diciamo che per quello che riguarda l'educazione dei figli non c'è nessun tipo di problema, assolutamente hanno fatto tutto il meglio che hanno potuto, sicuramente continuano tuttora. Però poi questa eccessiva presenza, o comunque presenza maggiore rispetto a un tempo, possono comunque entrare troppo nel rapporto di coppia e quindi poi creare qualche volta dei rapporti fra coniugi. Quindi avere più potere, avere più potere decisionale, più potere educativo, certe volte può anche creare dei problemi. Cioè, ci sono naturalmente, la maggior parte dei casi sono cose positive, assolutamente, però spesso e volentieri qualche piccolo trauma all'interno della coppia possono anche crearlo. Quindi ecco, ci vuole un po' di attenzione e naturalmente ci vuole molto equilibrio. Ecco, ma questo... Stefano, i nonni sono vicini perché probabilmente la casa in cui abita... Sì, la casa i nonni sono vicini, però per esempio in certe situazioni, in certi momenti i nonni, quando sono presenti i genitori, naturalmente rimangono comunque potenti nel rapporto con i figli. Quindi dico, sostanzialmente ci vuole molto equilibrio, perché non è poi tutt'oro quello che luccica. Cioè, è vero che una volta c'erano le famiglie patriarcali e tutto il resto, però oggi purtroppo ci sono anche la coppia, anche altre esigenze. In questo caso la coppia viene a perdere anche una parte della propria privacy, perché naturalmente i genitori, guardando sempre i figli, i nonni guardando sempre i figli, vogliono comunque avere anche più autonomia, giustamente, per l'amor di Dio. Certamente. Beh, lei indubbiamente parla di equilibrio è forse la parola giusta, perché problemi ce ne sono, non certamente tutte cose fiori, sono molte opportunità, molte possibilità per i nonni di aiutare le famiglie, il rischio di essere talvolta invadenti ci può essere, il rischio di andare un po' oltre anche alle loro necessità, alle loro esigenze ci può essere, l'equilibrio di fondo deve esserci, però è un equilibrio che poi va ricercato indubbiamente caso per caso, famiglia per famiglia, non dimenticando che quello che deve esserci alla base non deve esserci un'utilità ma una passione, un amore reciproco verso la famiglia, verso i figli e verso i nipoti. Io in questa prospettiva vorrei chiedere ad Anna Maria Bernardini De Pace se ci sono dei divorzi causati dai nonni. Sì, ci sono dei divorzi, dipende dal fatto che molti figli, proprio perché ragionano da figli ancora, anziché ragionare da genitori con tutte le responsabilità dei genitori, assegnano un ruolo di servizio eccessivo ai nonni, li usano sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico per la vigilanza, la custodia dei figli eccetera, e poi dopo pretendono nei momenti di vacanza, nei momenti in cui sono liberi dal lavoro, di relegare i nonni nel deserto. Allora a questo punto i nonni ovviamente hanno acquisito conoscenza dei nipotini, responsabilità, sanno che danno tanto ai figli e si dispiacciono, si frustrano per questa cosa e quindi intervengono nella coppia, intervengono con rancori, intervengono anche con invadenze esagerate. Queste sono le dinamiche che normalmente avvengono in qualsiasi rapporto umano. Non puoi pretendere in una relazione di avere soltanto e di non dare e di non riconoscere. Io trovo che la posizione all'interno di ogni famiglia vada appunto modulata sulla funzione che hanno assunto i nonni fin dall'inizio. E quindi, per esempio, dando nel caso mio particolare, le mie figlie sono con i loro mariti molto presenti come genitori, li educano, la disciplina è affidata a loro, non a me, la custodia, la vigilanza è affidata a loro, non a me, quindi io in realtà per i miei nipoti costituisco momenti di trasgressione del fare, non so, del vedere un po' di più della televisione, dello stare un po' più in piedi rispetto alle regole normali, e quindi non potrei mai intervenire sui criteri educativi dei miei figli e che appunto certo. Applicano alle mie figlie, mentre invece quei nonni che nella quotidianità si occupano dei figli e sono obbligati, quei nonni dai quali si pretende la cura perché non si può pagare una babysitter o perché non la si vuole pagare, poi è ovvio che intervengano e critichino i figli quando si comportano coi loro figli a loro volta con atteggiamenti che non corrispondono alla quotidianità imposta a quel punto dai nonni e ai nonni. Certo, Silvia Vegetti Finzi, che consigli si possono dare allora ai nonni, ma anche ai figli, non tanto ai nipoti, che di solito i nipoti sono piccoli, ma ai nonni e ai figli, padri appunto dei nipoti, per mantenere questo equilibrio e per evitare appunto che un dato di utilità, un dato che può far crescere la famiglia, si possa trasformare invece in un rischio. E quello dei rapporti tra figli e genitori, quindi tra genitori e nonni, è uno dei centri più problematici di questa nuova, come dicevo, geometria della famiglia, ed è il più trattato delle 100 lettere che ho ricevuto da parte dei nonni che raccontano della loro vita, delle loro esperienze, dei loro problemi. È un problema molto forte soprattutto tra madre e figlia, perché essendo la nonna quella che più si occupa dei nipoti, è anche quella che più rischia di uscire dal seminato e di invadere il territorio dei figli, i quali si difendono la loro intimità, la loro priorità. Io credo che ognuno porti nel rapporto nella sua figura di nonno la sua tradizione, la sua storia, quello che è stato. Questo è molto importante perché dà continuità alla famiglia, però bisogna anche rivolgere un'attenzione, come lei giustamente diceva, al complesso dei rapporti familiari, non vedere soltanto i nipotini, ma vedere che i nipoti hanno dei genitori, che questi genitori devono essere sostenuti e valorizzati, non devono essere infantilizzati, come spesso invece capita, questo considerare i genitori come dei bambini che devono essere disciplinati. No, l'educazione spetta ai genitori, lo stile di vita spetta ai genitori e i nonni invece devono dare soprattutto continuità, senso di contenimento, i bambini devono sentire che appartengono a una tradizione, che la loro famiglia ha una storia, che questa è testimoniata dai nonni, ma anche nonni che devono lasciarsi andare per equilibrare il fatto che spesso i genitori chiedono troppo a questi bambini. Sono genitori molto esigenti, spesso fanno sì che i ragazzini si sentano inadeguati alle richieste dei genitori, ed ecco che sopraggiunge il nonno che invece fa la parte della felicità, del piacere, riporta in auge appunto gli elementi più liberi, più creativi della realtà, e soprattutto in molti casi quell'attenzione per la vita materiale, per quel saper fare che sta proprio smarrendo la continuità, che è come saper cucinare, saper coltivare un orto, saper fare un po' di bricolage. Questo usare le mani, usare il corpo, un saperci fare che non passa necessariamente dalla comunicazione verbale, questo spetta ai nonni. Quindi nonni estremamente importanti, non soltanto appunto perché sono nuovi e quindi vanno con i tempi, ma anche perché portano qualche cosa di inattuale, perché portano con sé degli elementi di continuità e di tradizione estremamente importanti, ed è soprattutto rilevante che ogni famiglia abbia il proprio stile di nonnità, che i nonni non si lasciano equiparare, e le storie di questi 100 nonni rivelano una differenza enorme. C'è il nonno della domenica, c'è il nonno dei giorni feriali, c'è il nonno utile e c'è il nonno dilettevole. L'importante sarebbe che ognuno di noi riuscisse a mettere insieme tutte queste componenti in modo da essere un nonno sempre nuovo, sempre da scoprire, sempre al tempo stesso legato al passato e aperto al futuro. Grazie di questa testimonianza, anche proprio sulla differenza. Non c'è un modo solo di essere nonni, ci sono tanti modi che ognuno deve vivere al proprio interno, al proprio modo, nella propria famiglia, cercando appunto di far crescere la propria esperienza, non fare solo il nonno indubbiamente, ma cercare appunto di far crescere complessivamente la famiglia, dando una testimonianza reale. Da un punto di vista sociale ci avviamo alla conclusione rapidamente. Nadia Delai, cosa può fare questa società per aiutare indubbiamente questa trasmissione di esperienze, che è qualcosa di molto utile, di molto costruttivo, di qualcosa che sicuramente fa crescere non solo le famiglie ma anche la società? Nadia Delai. Ma io direi due cose, perché resta sempre un fatto culturale fondamentale, fatto di due componenti: la piena soggettualità delle parti, perché all'interno della relazione tutti i soggetti devono accettare il gioco della soggettualità piena. I figli non possono restare figli in eterno, devono accettare che diventano adulti, possibilmente non a 40 anni, e devono accettare che la soggettualità degli anziani è destinata a crescere ancora. Quindi avranno nonni attivi fino a 70 anni, non possono costringere, cioè i nonni vogliono restare adulti per lungo tempo, mentre i giovani tendono a non voler diventare adulti in maniera adeguata. Quindi piena soggettualità delle parti. E la seconda è la giusta distanza. Credo che alla fine, nella diversità degli stili di essere nonni, resta un dato comune a tutti: una giusta distanza è importante tra le persone, cioè lo scambio dei servizi, l'amore, l'assistenza materiale e non materiale ha bisogno di tenere presente sia nei nonni che nei figli la giusta distanza. È chiaro che vivere nella stessa casa rende più difficile l'esercizio della giusta distanza, vivere troppo lontani rende troppo difficile l'esercizio di avere relazione, ma la giusta distanza va mantenuta. Più si è vicini, più bisogna esercitarsi nel mantenere la giusta distanza. Grazie Delai, anche questo è un esempio appunto di equilibrio. Grazie a Nadia Delai, sociologo, presidente di Armeneia, così come ringrazio Anna Maria Bedanini De Pace, avvocato, scrittrice, giornalista, e Silvia Vegetti Finzi, autrice del libro Nuovi Nonni per Nuovi Nipoti, leggetelo e fatelo leggere. Ringrazio anche Piero Ostellino, Giorgio Matè in regia, Guido Scotti in redazione, e l'appuntamento è per lunedì.